sai quanto è difficile vivere senza te. Davvero non è facile trovare un'altra te. Io sarò quello che tu vorrai e non ci lasceremo mai. Io sarò come tu mi vorrai e non ci lasceremo mai. Io lo so che tu, io lo so che tornerai, io lo so che lo farai, e questa volta non te ne andrai, io lo so che resterai. Mi ero solo illuso di star bene senza te. Quante volte ho sbagliato, non ho saputo scegliere. Ma solo se tu ritornerai, noi non ci lasceremo più. Solo se tu ritornerai, io non sbaglierò più. Io lo so che tu, io lo so che tornerai, io lo so che lo farai, e questa volta non te ne andrai, io lo so che resterai. Ora sono rimasto solo e tu mi manchi più che mai. Io che ti amo ancora, ma tu, io lo so che tornerai, io lo so che lo farai, e questa volta non te ne andrai, io lo so che resterai.